Carne. Perché se di carne si parla è perché carne si vende. Carne. Chi mangia patate, chi mangia patate, chi mangia patate non muore mai. Patate, patate, patate, patate, patate, patate, patate, patate, patate, patate, carne. Patate. Perché se di carne si parla è perché carne si vende. Carne. Chi mangia patate, chi mangia patate, chi mangia patate non muore mai. Patate, patate, patate, patate, patate. Ci si può aspettare di tutto di questi tempi perché consolarsi è un obbligo ed essere flessibile altrettanto, ma qui si parla di carne e se di carne si parla è perché carne si vende. Carne. Per diventare immortali è consigliato l'acquisto e l'uso a scopo di consumo di patate, patate, patate. Io canto una tradizione non tradita: chi mangia patate, chi mangia patate, chi mangia patate non muore mai. Pezzo di carne, evviva la carne, profuma. Profuma, profuma, profuma, che forma e che gusto! Niente paura, c'è licenza, bollo e luogo di provenienza, ma soprattutto tanta esperienza. Ed anche qui vale se il prodotto torna perfetto, il diritto del consumatore che dice soddisfatti o rimborsati, soddisfatti o rimborsati. E viva la carne, viva la società, da mangiare col naso appuntito, con gli occhi bassi, silenziosi. Mangiare, mangiare, mangiare, mangiare, mangiare, sembra sbranare ma è baciare. Si devono odiare, quelli che prima di mangiare sono tristi e sembrano sazi, anzi lo sono e non sanno baciare. Facciamo girare l'economia, facciamola girare e rinnovare. Chi ha le tasche piene non compra, non fa girare e non monta. Con la carne non si sbaglia, non si sbaglia, non si sbaglia. Patate buone e belle per gente bella, patate buone e belle per gente bella. E spendiamo, spendiamo prima di diventare piccoli, piccoli, piccoli come pidocchi. Spendiamo, spendiamo che lo so che vi piace. Consiglio a gratis, libero dai diritti d'autore. Piatto della giornata. Uè, pirla! Uè. Vabbè, carne al sangue ma con contorno di patate immortali, piatto garantito dal sottoscritto, buono e gustoso come il vostro sorriso quando siete contenti. Parola mia, parola mia. Rindare un momento ero bisogno, ci hanno aiutato l'uno con l'altro. Lo formica loro capettero, noi invece no. Giusto. Ma l'hai vista quel? Sì che l'ho vista, te parca su sguardo. E che cos'è, zucchero? Si sciolgono in bocca, nuove vecchie da fare in tutte le maniere. Se non le vendo me le mangio. E la festa che è stasera lei troppa bella. Patate buone belle per femmine belle. Patate buone belle per femmine belle. E carne, carne rossa come sangue. E dolce come la vita. Io non posso venire. Perché? È un sacco di tempo che non sto a casa con la femmina mia. Cosa ti vorrei dire? Ci è ammanata a vuota sta festa. La che non un'altra volta. Perché te mi guardi in sci? Sai che? Derva la buca, parla! Patate, patate, patate, patate, patate, patate, patate, patate, patate, patate. E se te la tirassi in re? Salvatore, se la stanno a fare è per lui. Io stava a pazzia. Chiurim baracca e baracca, leiamoci una sta bella festa. Signore e signori clienti, ci dispiace per voi, ma si lavora per campare fortunatamente. Ci vediamo come sempre al solito posto ed alla solita ora. Arrivederci e grazie. Arrivederci e grazie. Andiamoci. Un t'aspetto più. Non bisogna mai dare tutto. Si deve sempre lasciare un posto. A little place in cui nascondere e nascondersi. O si può pure immaginare. Ognuno a modo suo. Ma deve esserci. Punto e basta. O fa apposta. Vuole vedermi aspettare e soffrire, sula. Come un fantasma. Vuole arrivare mentre ho gli occhi chiusi. Vuole svegliarmi e non farsi ascoltare mentre parla. Vuole nascondermi a sua gioia mentre mi guarda i dita dei piedi. E si vuole sentire forte mentre mi accarezza i capelli. Mi dà un bacio sul naso. E poi scoppia a ridere. Ma stavolta non ce n'esce niente. Io voglio che si perda dintre mia. Dintre un lungo corridoio pieno di stanze. I haven't the keys. E non voglio averle. Come gioia sarà perduto. E quando io muovo a testa, scirocco e Storms nei socchi. Non si ritarda così tanto. Non si lascia sola una donna. Devo stare attenta e essere più esperta. La politica porta guai. Un pericolo è Black. Buonasera, buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Per essere più precisi, buonasera dal primo all'ultimo. Noi siamo qui al vostro servizio, al servizio di chi ci chiama, e abbiamo adesso il dovere di mettere tutti i puntini sulle i. Veniamo a noi, dunque. Abbiamo lasciato la giovane Laura immersa in un mare tempestoso e puzzolente. Cerca, senza saperlo, l'impiccato. Salvatore, il suo uomo, non arriverà. Salvatore, insieme al suo amico e compagno di lavoro Vito, è stato arrestato, ma solo dopo aver subito un lungo interrogatorio fatto di occhi bendati da nastro scuro, manette strette ai polsi con braccia dietro la schiena, schiaffi inguantati di pelle nera in faccia, alle orecchie, dietro la nuca, scarafaggi a centinaia posti sul capo appena cosparso di zucchero, palettate dal ritmo costante sferrate sulla schiena appena bagnata, unghie della mano sinistra strappate con una piccola tenaglia nera, scosse elettriche sui testicoli ad intensità media, calci inaspettati e repentini alla bocca dello stomaco e dai fianchi. Voi vi starete chiedendo il perché dico tanta violenza. E noi ve lo diciamo, o meglio, vi diciamo più semplicemente il capo di imputazione per entrambi: omicidio e rapina. Se Salvatore e Vito siano innocenti o colpevoli, al momento noi non lo sappiamo. Se uno dei due sia innocente, mentre l'altro colpevole, o viceversa, purtroppo al momento noi non lo sappiamo. Noi sappiamo che sono due immigrati senza il permesso di soggiorno. Noi sappiamo che appartengono alla classe meno abbiente della società, ma soprattutto noi sappiamo che Salvatore e Vito sono stati accusati di far parte del movimento terroristico anarchico. Questo noi ora sappiamo. Ma mentre la giovane Laura va a svolgere il suo quotidiano lavoro pagato ad ore, fortunatamente lei dell'interrogatorio e dell'arresto nulla ne sa. Hi, fine, thanks. Yes, it's okay. It's okay. I will clean it. I will clean that. The funeral? Do you want to listen again this very nice story? Oh, okay. Yes, it's okay. Mr. Down aveva 50 anni frischi frischi. Infarto. Medium funeral. I persone che piangevano veramente erano più o meno un 10%. Su un totale di circa un 70% di gente che piangeva. Tra cui Mrs. Window, the lady of Mr. Down, che però faceva parte del 60% della gente che piangeva per finta. Un restante 30% parlava della crisi che sta per arrivare. Io me ne adugno subito. È un dono che ho da quando ero una little girl. Iggy non piange veramente. Lei piange veramente. I am a teacher in crying. Veri e finti. Comunque, Mrs. Window faceva piangere i suoi occhiali black da vedova con tanta bravura che a mia veniva voglia di farle una standing ovation. Believe me, please. I saw many ladies in the funeral, but she is the best. Camminava rascio rascio. Teneva i mani unite. e gli occhiali black le facevano tic tic, tic tic, tic tic, tic. E allo stesso tempo non dimenticava mai di porgere a guancia ogni volta che le si avvicinava un cristiano richiggi importanti. E during one important salutis of this, già, all'incrocio fra la Avenue Black e la Avenue Ice, vedo arrivare un'auto funeral. Tutti a quel punto cominciarono ad affrettare un passo. All people, compresa Mrs. Window, che non riusciva più, camminando a da velocità, a fare ticchi ticchi ticchi ticchi ticchi ticchi con gli occhiali black, e per questo diventava sempre più nervosa. Sempre più nervosa, aveva voglia di mangiarseli gli occhiali. Avuto che tic tic. She moved always the nose. Allora, fu allora che le Bad Sister guardarono Mrs. Window. They understanding soon. E si tolsero le scarpe, gettarono via i cappelli e cominciarono a correre, incitando tutti i kiddi del proprio funeral a fare altrettanto. E mentre corriano urlavano come delle crazy che kiddi dell'auto funeral li stavano fregando. Non possono passare prima di Niace, non ne hanno il diritto. C'eravamo prima Niace, c'eravamo prima Niace, Niace, dicevano. E in effetti, chi si usava a dire? Kiddi dell'auto funeral non avevano certo un passo da funeral. They walking like going in a party. Sa come mai? Comunque, più le Bad Sister urlavano e corriano, più kiddi dell'auto funeral acceleravano passo. Era una situazione very crazy. Se continuavano così, all'incrocio fra la Avenue Black e la Avenue Ice, ci sarebbe stato uno scontro memorabile. E un bello è che più loro urlavano e corriano, più a me veniva da ridere. Non riuscivo a trattenermi, non credia ai miei occhi e pensavo: no, non può essere un cicrio, io ho un cicrio. But it's the truth. Fortunatamente, a un certo punto, a Kiddi dell'auto funeral gli è scivolata bara dalle mani e si sono dovuti fermare. E questo ha permesso al Mrs. Window Funeral di passare per primo, solenne, respectable e papparioso. Tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic. But it's not the end, because a un certo punto a Kiddi dell'auto funeral, mentre cercavano di alzare a bara because inside there is the dead, hanno cominciato a fare gestacci e a insultare tutti i kiddi del funeral di Mrs. Window e a Salma di Mr. Down. E Mrs. Window non poteva certo fare finta di niente davanti a tutti i gicristiani importanti, ma soprattutto davanti a Salma di Mr. Down. E no, she cannot finta di niente, Mrs. Window. E questo è un motivo per cui all'incrocio fra la Avenue Black e la Avenue Ice c'è stata la più grande, forte, potente, super mega rissa che si ricordi da 3 generazioni nel sobborgo di No Limits. You want to listen one more time this very nice story? Oh, yes, it's okay. Yes, Mr. Down aveva 50 anni frischi frischi, infarto, medium funeral. I persone che piangevano veramente erano più o meno un 10% su un totale di circa un 70% di gente che piangeva, tra cui Mrs. Window, the lady of Mr. Down, che però faceva parte del 60% della gente che piangeva per finta. Un restante 30% parlava della crisi che sta per arrivare. What? Oh, yes, it's okay. Thank you, thank you. Yes, it's okay. I will clean it. Yes, it's okay. I will clean that. Yes, it's okay. Goodbye. O me pare l'ora che si fa l'ora e me ne vaio. Una donna sola non si lascia. Non è tornato. Pimmì allora non è mai esistito. O me cori io. Sarò libera, come i picciriddi quando dormono. Andrò to dance. Le mie spalle hanno gli occhi grandi e non si scantano. Io conosco gioia e l'allegria. Io conosco tavoli, tavolina, lights, sciate, mountains, giardini, uomini, vucchi, labbra, croce di sangue. Croce di sangue. Croce di sangue. O me giavaglio io. Four hours. Eight hours. Twelve hours. Non so manco più quanto. Ma è mio. Si ricomincia. Again. Sogno sola. E io voglio stare sola. I don't want to dream. I don't want to dream. Io non voglio più sognare. Non mi voglio più sonnare. Basta. Basta. Basta. Basta. Basta. Basta. Basta. Basta. Buonasera, di nuovo buonasera. Abbiamo adesso il dovere di essere ancora più precisi. Parteciperemo quindi con relativa emozione agli avvenimenti. Dunque, la notizia dell'arresto di Salvatore, insieme al suo amico e compagno di lavoro Vito, non è arrivata alla giovane Laura attraverso il cinguettio di un vivace e colorato uccellino. Nessun dolce bianco angioletto annunciatore è venuto ad accarezzarle il viso e a sussurrarle parole di conforto e di speranza. Poi, dopo 7 anni di inferno glaciale, fatto di aule di tribunale, sale d'attesa, lavori pagati ad ore, parlatori, la mattina del 21 marzo, sulla scalinata del tribunale, Laura, divenuta madre, Salvatore e Vito, accusati di omicidio e di rapina, scortati da 5 funzionari delle forze dell'ordine, vennero accolti da una folla indignata e pressoché uniforme. Per essere più precisi, incivili, ignoranti, ladri, assassini. Poi, questa è la nostra terra. Questa è la nostra terra. Questa è la nostra terra. Poi, terroni, fuori gli assassini rossi. Arrostiamo i selvaggi rossi. Tornatevene nella vostra terra. Sporchi, barbari, terroristi, terroristi, terroristi. Poi animali, feccia, incivili, venuti da paesi incivili. Voi venite dai bassi fondi della nostra società. Voi non sapete parlare la nostra lingua. Poi immigrati senza un soldo. Voi ignorate la nostra mentalità. Voi ignorate la nostra cultura. Voi ignorate le leggi della nostra società. Poi pericolosi per le nostre libere istituzioni, per le nostre amate, benedette famiglie. E dopo aver attraversato la folla indignata, Laura seguì Salvatore e Vito per l'ultima volta dentro l'aula del tribunale. La parola venne data al pubblico ministero. Colpevoli, colpevoli, colpevoli. Ci sono testimoni della rapina. Abbiamo prove dell'omicidio. Colpevoli, colpevoli, colpevoli. Poi, essi sono anarchici, anarchici. Criminali, ladri, assassini, assassini. Criminali, sovversivi, terroristi, terroristi, terroristi. Subito intervenne l'avvocato difensore. Razzismo, razzismo. Razzismo. Dio ci ha creato a sua immagine e somiglianza. Loro non capiscono la nostra lingua. razzismo. Poi ci vogliono perizie. Perizie, perizie, perizie. Il pubblico ministero si avvicinò agli imputati. Gli guardò i capelli, gli guardò il cuore, gli guardò le ginocchia e dopo li interrogò. I due imputati risposero: non me lo ricordo. Non me lo ricordo. Non me lo ricordo. Poi: non è vero. Non è vero. Non è vero. Poi: non me lo ricordo. Il pubblico ministero si allontanò dagli imputati e continuò con le sue domande. I due imputati: siamo innocenti. Siamo innocenti. Siamo innocenti. Poi: non è vero. Poi: sì, è vero, siamo anarchici. I vostri soldi, le vostre guerre, i vostri soldati, su ogni terra, uccidono donne, vecchi, bambini, innocenti. Siamo innocenti. Innocenti. Allora la giuria e il pubblico ministero disse: criminali, sovversivi, terroristi, terroristi. Poi: essi odiano la nostra terra. Con le loro bombe fanno sanguinare la nostra terra. Essi odiano il nostro ordine. Con le loro bombe vogliono sovvertire il nostro ordine. Essi odiano i nostri soldati. La loro religione è l'odio. Poi: criminali, ladri, assassini, assassini, assassini, assassini. E i due imputati urlarono: non è vero, non è vero, non è vero. Ma il pubblico ministero continuò: la loro religione è l'odio, la loro religione è l'odio, la loro religione è l'odio. Poi: assassini. E i due imputati urlarono ancora più forte: noi siamo anarchici, noi siamo senza religione. No, addio, no, addio, no, addio. Poi: no allo Stato, no al giudice, no allo Stato, no al giudice, no allo Stato, no al giudice. Allora la giuria e il pubblico ministero ribadì: ci sono testimoni della rapina, abbiamo prove dell'omicidio. Poi: essi sono anarchici, anarchici, criminali, ladri, assassini, assassini, criminali, sovversivi, terroristi, terroristi. Poi: colpevoli, colpevoli, colpevoli, colpevoli, colpevoli, colpevoli. E infine l'avvocato difensore, il giudice, implorò: no a un'ennesima nuova moderna via cruz. No a un'ennesima nuova moderna via crucis. No a un'ennesima nuova moderna via crucis. Via crucis. Emarginazione, disperazione, galera, morte. No. Poi: vi sono attenuanti, ci sono testimoni, ci vogliono perizie. Attenuanti, testimoni, perizie, ci vogliono perizie. Perizie, perizie, perizie, perizie, perizie, perizie, perizie, perizie, perizie, perizie. Poi l'aula del tribunale si fece fredda e silenziosa. E a tutti parve strano che in primavera potesse esserci tanto freddo e tanto silenzio. Ma così fu. Il giudice si alzò, guardò tutti i presenti uno per uno. Gli ultimi ad avere gli occhi del giudice dentro i propri occhi furono i due imputati. A questo punto il giudice sentenziò: pena capitale. A morte. Pena capitale. A morte. Così è stato scritto. Così sarà fatto. Così è stato scritto. Così sarà fatto. Così è stato scritto. Così sarà fatto. Così è stato scritto. Così sarà fatto. Questo dolore, ai ai ai ai, moro moro moro moro, c'è dello mangore, l'amore mio setto, ai ai ai ai, moro moro moro moro, c'è dello mangore, l'amore mio setto. Uri. Tu me l'asse sola. Tu me l'asse sola dentro a sto caos. Maniage, siamo ancora in semmola. Io ho fatto un bellissimo sonno. Chi non riluci e come munta in se virdi virdi. Io mi arrampicavo, ruci ruci, sopra ste montagne virdi virdi. Mi arrampicavo e mi aiutavo con pezzi di stelle che trovavo. Arrivavo da sopra, toccavo il sole. E giù. Sai, Baturi, io ho tanta speranza. Io ho tanta fiducia. A così io perdo uno sciofuoco senza fine. A così io perdo uno sciofuoco. Chi giù senza blu. Uno sciofuoco. Uno sciofuoco. Uno sciofuoco. Riunina scio. Ti stai perdendo. Ti stai perdendo. Ti stai perdendo. Ti stai perdendo. Io non ci crio alla rapina. Io non ci crio all'omicidio. Io non ci voglio stare qua. Io me lo ordo un giorno preciso. Perché do tale giorno mi accattai una vesta. Io sogno povera. Io non saccio per quanti ore travagliare. Io non ho bisogno di un posto non ammucciarmi. Io voglio la fame e la sete. Rincia stessa mace. Io voglio essere già. Ci voglio essere pure io. Io sogno ancora dritta. Ora. E più sempre. Ehi, hey Al. Sì? Ti va di farne una delle tue? Di brutto? Uè, figa! Io non sono mica un anarchico! Sì! Non te la prendere, Al. Ma ho davvero bisogno di qualcosa che mi disintossichi da tutta questa merda. Va bene. Ti faccio l'altro. Azza, guaiù. Ma io vende patate. E patate. Patate. Patate. Patate, patate. Sì, mi fai morire. Tum tum. Shk. Ding. Ah! Sia lodato Abramo, Gesù di Nazareth e Maometto. Sempre, sempre, sempre, sempre. Beh, essere dei normali cittadini è facile. Ma vuoi mettere le soddisfazioni che si hanno a fare questo mestiere? È come una fede. In generale, è fede nell'essere umano. Certo! Un'altra cosa, Al. Sì? Voci di corridoio dicono che in questo periodo bisogna stare attenti, molto attenti, agli infiltrati. Sì, sì, sì, sì. E tu che ne pensi? Beh. Beh. Beh. Beh. Beh. Beh. Allora, Dio cane. Allora, Dio cane. Allora, Dio cane. Allora, Dio cane. Ma Ma che sta succedendo? Niente di grave, niente di grave, niente di grave, niente di grave. Ma era uno scherzo! Era uno scherzo, era uno scherzo, era uno scherzo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Dai, che ce lo possiamo permettere. Un'altra, un'altra, un'altra, un'altra. Ozzuoio. Ma io non sto bene. Aiuto. Aiutatemi! Aiutatemi! Punto. Signor pubblico ministero, ha proprio una brutta faccia oggi. Ho avuto un incubo. Non ti era mai successo, Frank? No. Mai. Ho sognato i due anarchici. Addirittura? Sì. Penzolavano a testa in giù. Gli occhi, però, erano spalancati. Quattro occhi diabolici. Brr, brr, brr, brr. Che paura. Mi vengono i brividi. Continua. Cerco di avvicinarmi a loro, ma appena faccio il primo passo, comincia a farmi male violentemente la bocca. Prima i denti, poi la bocca. Cado per terra. Provo ad urlare, ma non ci riesco. Allora mi rassegno a crepare. Ma mi accorgo di non avere più una bocca. Ho due bocche. Finalmente riesco ad alzarmi. Vado verso di loro. E prima che io mi possa chiedere il perché... Le mie due bocche si incollano alle loro. Due interminabili baci. E l'incubo qual era? Che li baciavi o che erano ancora vivi? Quando mi sono svegliato ho vomitato. E che cazzo? Io mi chiedo se questa sentenza servirà realmente a qualcosa. Si fermerà, anche se con un'azione così violenta l'odio che esplode dentro le nostre famiglie, fuori nelle strade. Secondo me potrà servire soltanto ad evitare un sovraffollamento delle carceri. Certo, un problema utile da risolvere, soprattutto se si pensa alle fallimentari alternative che ci rimangono. E mi riferisco chiaramente ai recuperi sociali, agli indulti, alle amnistie varie. Tu che ne pensi? Noi stiamo cercando solo di fare giustizia. Ma siamo sicuri che la possiamo chiamare giustizia? Che vuoi dire? Questo. Se la legge dell'uomo sta alla legge di Dio, come l'uomo sta a Dio, allora come nessun uomo ha il diritto di uccidere un altro uomo, così nessuna istituzione pensata, realizzata dall'uomo, può arrogarsi il diritto di uccidere qualsiasi uomo. Hai finito? Sì. Quindi? Io ho paura. E a volte mi sento confuso. Ma che cazzo vuoi da me? Io ho veramente paura. Va bene. Ho capito. Vuoi giochicchiare? Giochichiamo. Prendiamo questa semplice racchetta e questa altrettanto semplice pallina. Adesso poniamo la pallina perfettamente al centro della racchetta. In teoria, se io non muovo la racchetta, la pallina dovrebbe rimanere immobile, o no? Sì. Proviamo? Proviamo. Bene. Può bastare. Sia lodato nostro Signore, il Dio dell'universo. Legge di gravità, signor pubblico ministero, legge di gravità. Se non ci fosse la legge di gravità, la pallina o volerebbe in alto sino a disperdersi nell'atmosfera. Dio. Oppure sfonderebbe prima la racchetta, poi il nostro campo, oltrepasserebbe il nostro pianeta per poi ritrovarsi di nuovo dispersa nell'atmosfera. Signor Mefistofele! Legge di gravità! Ma la cosa più importante è che senza la legge di gravità noi non potremmo più giocare. E questo sarebbe un vero peccato, perché così salutare... Ma tu credi veramente che sia sensato paragonare il nostro lavoro alla legge di gravità? Sì, perché? Secondo me è assolutamente sbagliato. Dimostramelo. Nella tua metafora è come se noi fossimo al di sopra della volontà. Mi viene da ridere. La verità è che noi abbiamo influenzato irrevocabilmente l'intero processo. Io non la penso così. In ogni caso nostri saranno i meriti. Se vi saranno, e nostre saranno le colpe. Ah, continua, continua. Mi hai quasi convinto. Non stiamo parlando di palline da tennis, ma di esseri umani. Abbiamo fatto un buon lavoro. Dobbiamo solo continuare così. Tu non mi capisci. Io sono pronto a rinunciare alla mia professione. E se tu allora non voler capire? Pezzi di corpi sparsi da tutte le parti. un occhio, un mignolo da una parte, gli intestini, una gamba da un'altra parte. I pezzi di corpi ci sembravano bambini. Bambini mai nati, però. L'odore di plastica e di carne umana bruciata. Boom! Dopo pochi minuti che eravamo lì, in quella banca dall'aspetto così moderno, abbiamo subito capito che forse era meglio non camminare, non guardare. Di certo però non puoi aver dimenticato il cane, quel cane completamente nero di sudiciume che senza che nessuno avesse la forza di fermarlo saltellava con in bocca piccoli pezzi di esseri umani. Quello era l'inferno sulla nostra terra. Vedi, ci sono alcuni eventi nella vita di un uomo che, se dimenticati, possono produrre gravi danni alla sua crescita etico-morale, nonché professionale, ovviamente. Ma io non dimentico nulla. Ma non è questo il nocciolo della questione. Sarò più esplicito, allora. Quello che noi stiamo praticando ha un solo nome. Legittima difesa. Legittima difesa? Sì. Facciamo finta che quei due anarchici alla fine siano pure innocenti. Ma stiamo comunque parlando di anarchici. È quello che vogliono è la rivoluzione, la rivolta. E per fare questo non si preoccupano di certo di mettere bombe, fare rapine, omicidi, attentati. Secondo te, allora, non è comunque questa, per la nostra società, un'imperdibile occasione in cui praticare il diritto di legittima difesa? La società, una volta tanto, ha la possibilità di sbarazzarsi di una piccola bolla, di questo mare di merda che l'assedia. E noi cosa dovremmo fare? Dovremmo lasciare liberi quei due terroristi ed aspettare che con una bomba nell'ora di punta, in una qualsiasi piazza di una nostra città, facciano saltare in aria cittadini innocenti prima di poterli finalmente condannare a morte? Oppure facciamo così? Lasciamo liberi quei due delinquenti ed aspettiamo che in una qualsiasi notte, in una qualsiasi periferia di una nostra città, per pochi spiccioli uno dei due, dopo averla stuprata, tagli la gola ad una madre, o ad una sorella, o ad una qualsiasi figlia di un qualsiasi onesto lavoratore. Non rispondi? Non rispondi? Non rispondi. Non vi sarà pietà per chi colpisce una, soltanto una, delle innocenti pecore del mio gregge. Condannare a morte quei due immigrati non risolverà il problema. Non abbiamo altra scelta. Stiamo facendo la scelta più comoda. La pena di morte non è la più comoda, ma la più efficace. Ama il prossimo tuo, come te stesso. Era cessata ogni autorità di governo in Israele, sino a che non volle il Signore. Ama il prossimo tuo, come te stesso. Anima mia, calpesta con forza. Ama il prossimo tuo, come te stesso. Periscono tutti i tuoi nemici, Signore. Ho paura. I posteri ci ameranno per quello che abbiamo fatto. Ma siamo soli. Ti dimostrerò il contrario. Siamo soli. E vieni con me nel paese che mi è toccato in sorte. E combattiamo insieme contro i cananei. Ho bisogno di pregare per i due condannati. Ad est fideles leti triumphantes. Venite, venite in Betlem. Straziante bellezza. Mi fa quasi male. Cosa fai quando sei disperato? Cosa faccio quando? Quando sei disperato. Cosa fai? Vado a teatro. Tu? Prego. E mi rivolgo a Dio con tutto me stesso. Bene. La spiritualità allontana l'uomo dall'animalità. Se dovesse venire a mancarmi anche lui, è meglio se crepo. Thank you. carne di questo paese è stata squartata dalle loro bombe. Le loro terre natie sono sopruso, violenza, caos. Nel loro sangue scorrono questi tre elementi, nel nostro sangue vogliono che scorrano. Cosa devo fare? Il mio essere semplicemente uomo deve prevaricare il ruolo affidatomi dalla società. Dinanzi a te, allora, io adesso sono uomo. E se per me, pubblico ministero di questo libero paese, non vi è la certezza giuridica della loro colpevolezza, per me semplice uomo essi sono colpevoli. Colpevoli dinanzi a te. Colpevoli dinanzi all'umanità. Cosa devo fare? Tum tum. Ehi, ma ve lo ricordate come faceva quella puttana dopo la sentenza di condanna a morte? Sì, sì, sì. Ti inteneriva coi suoi capelli sporchi e coi suoi occhi umidicci. Ti guardava dritto senza abbassare lo sguardo e sembrava che ti dicesse: io non sono più una donna. Io adesso sono un uomo. E allo stesso tempo, alzando il musetto, ti ricordava che però era pur sempre una donna. Una madre che stava perdendo il padre dei propri figli. E allora sembrava dirti: voi siete dei bastardi! Ma la verità è che quel suo musetto ruffiano le serviva solo ad implorarci di non fare del male al suo uomo. Ed è per questo che sembrava che ti dicesse: pietà, sono pronta a prendermelo anche in culo da tutti voi, purché lo lasciate andare. E mentre tu ti facevi degli scrupoli, provavi delle emozioni, insomma, quella baldracca faceva un cenno con la testa e poi ti sputava in faccia, al cuore della tua fede, della tua umanità. Non si deve mai guardare per troppo tempo gli occhi di un altro essere umano. No, no, no. È incredibile. Non ci si può più nemmeno fidare dei propri colleghi. E questa è la democrazia? La fine del mondo? Come? Come? Come? Sono solo domande. Che Abramo, Gesù di Nazareth e Maometto non diano mai pace ad egli per l'eternità. Così sia. Così sia. Così. Allora, Dio cane? Allora, Dio cane? Allora, Dio cane? Ti stavo aspettando. È l'ora dell'esecuzione? Sì. Bene. Sia fatta la tua volontà. No. No. Prometeo. Si è ribellato agli dèi. Per questo fu incatenato sulle alture della città. Un'aquila. Gli mangiava il fegato. Che si riformava rendendo questa tortura eterna. Lotta per l'esistenza o solidarietà reciproca? Lotta per l'esistenza o solidarietà reciproca. Si può stare o di qua o di là? Si può stare o di qua o di là. Din don, din don, din don, din don, din don. Allora, già ma prima di cominciare, assassini, ladri, terroristi e loro. P. Vun. A post, un. Questo è il TTZT. Va buo, però può morrillo tu. Per via altri sentiamo colpevole anche a mo' prima di nas, p. Appena veniamo al mondo e fasi il bull. Me con i vacchi, pegur, che marchi con l'acqua, con te sang. Pecca original. Pecca mortal, karma, mecca e circoncisione. Perché dici che sto mondo è sfruttamento de passage? Perché se uno si comporta, mi dici vi alter. Perché il paradiso, la reincarnazione, ma per adesso, gende contentas. Perché se uno si comporta no, mi dici vi alter, appena muro mandiamo all'inferno, che è le pech dei due siamo adesso. Se le vera mi dici in lur che esiste il Dio, che il gà fa sua immagine e somiglianza, se Dio l'è come in lur, Dio l'è un muster. E il gà de morì, perciò, le me per lui e per noi che l'esista no. Due. Te vorrei fatti? No, pure questa fallo tu. Perché? A così. Fasi guerre in due che conviene a vi alter, che mandi i vostri valorosi e eroici soldati per portare la pace, mentre vorrei solamente rubare il petrolio, l'acqua, la terra e anche l'aria che respiro. I vostri valorosi eroici soldati, Kupen Bagai, Tuzan, Vec, gente che c'entra niente. E per quattro gheghe glassano anche la pelle. Tri! Questo è il fumo che tanta gente fanno arrivare. È lusso che gavivi altri che poi alla fine le tutte robe inutili per noi le fam. I danè, i fasi sul nostro laurà, sulla nostra vita, di per di, an dopo an, vita dopo vita. Ve impieni la pancia di mangiare e poi ve mangi il mondo. E non de un catasui fregui che perdi della buca. Più se gavi, più se vuri. Più se vuri, più che de laurà. Più che de laurà. E più che la fem più. Se vorrà la nostra carne, che andiamo a mangiarla con tutti gli ossi e con tutti i peli. E poi Dio un calcolo a tut, fino alla fine. Come te stai? Tu? Tutto a posto e ti? Buono. Vito. Sai che? Perché annuio? Cosa te vorrei dire? Perché proprio annuio? Perché precisa annuio? E perché su no? L'hai capita? È come quando a quel vinghe capita una disgrazia, per esempio. Come quando a quel vinghe muore il padre, lui le fa cos'è, il piange. Ma poi stringi pugni al tirinas. Salvatore. Creo. Messo sulla mente che la vita è una lotta. E che nuotra grande lotta con i pugni e con gli unci. E su anche che la cosa più importante è che desta insieme. Perché insieme se vince. De su se per, sia de vif che de mort. E poi. De un calcolo a tut. Salvatore, de un calcolo a tut. Fino alla fin. Fino alla fin. Reda! Uè. Ma te che mai pensa? Emigra, anarchic e carcerà. Che manca solamente di ventaculature e completa l'insalata. Perché ti ride, no? E allora rinno. Chi dice che l'ha preso in una galera? A me mi pare una villeggiatura. Chi dice che i manetti fa di fer? A me mi pare di braccia le d'or. Perché ti canta no? Ma tenga mica vede cantare, canta! E canti de per mille, mei. Chi dice che l'ha preso una galera? A me mi pare una villeggiatura. Basta! Sono stufo. De camminare. De parlare. Mi sono stufi. Sono fame. Giusto, in palta, senza onore. Loro pensano adesso, se non si chiede dentro gli amassi, ma se ne parla più, l'è finita. Invece finis niente. Niente. Infama. E senza onore. Infama. E senza onore. Infama. Sì, però adesso basta. Care, che fai? Difendi. Sono fame. Mi difendi. Sì, a me mi pare che li stai difendendo. E invece sono fame. Poi, te vorrei fare la finita o no? Ma care, che fosse tutto sbirro per tu. Noi, ruffiando un spion. Te sedrà a parlare sul serio? Sì, ti pare che non si vede che te la canta da quest'ora. Carabinieri senza la divisa. Sì, un vigile urbano senza la palette. Un vigile urbano senza la friscaria. Servo, per quater gay. Mi te spacchi la sì, magistrato. Sì, prefetto. Maresciallo. Sbirro con la pernacchia. Sbirro a cavallo. Soldato. Finanziera. Controllore d'autobus, controllore treno, guardia giurata, guardia forestale, guardia costiera. E adesso basta. A tu che per un limite, giusto? E guardia medica. È il suo Goethe. Quanto sei contento fa la finita? Guardia medica. Sai che è? A fine di stacchi dentro ti sei diventato scemo. No, però guardia medica è troppo forte. Addomisciuto. Siamo a posto. Vito. Sai che? Ha già parlà. Sta quieto. No, no, Vito ha già parlà. Ha già parlà, Vito. Tas. Vito? Ha già parlato? Ha già parlato, Vito? Vito? Ha già parlato? Vito? Ha già parlato? Salvatore? Parla. Lo sai che quando ero creatura una volta avetta fare un cricket? Te l'ha già mai raccontato? No, mai. E tanti ero pomeriggio me la facevo rindare a casa dietro il quartiere mio. C'è stavano un bello cortile buono per i cappalloni. Finiva a scuola senza manca passare a casa a mangiare, ma ne gli là per giocare con gli amici miei. Seguita! E rinda chiù per ieri, rinda sta casa di stavano facendo un campionato. E la squadra mia si chiamava a Golden Boys. Che non che. Sì, e tu pensi un poco. Lo capitano della squadra che faceva per chi sei voto lo chirichette, pigliavano e ci arrivano a 10 punti più. E niente, lo capitano me l'ha fatta a cullai. E come l'è finita? È finita. Carina, un momento più importante, quando si è da passare un bicchiere con rovina rubata. Rubata me l'ha fatta ripetere 70 volte. Ci stavo tutta la casa di rirevo. Ti sarei tra a dormire, vero o no? No, non stavo a dormire, stavo a pensare. Mi ero scordato. Stavo mi sono dormito e mi sono sciatato. Sì. Non è che ti vorrebbe beffare il calisotto e virus, è per questo che ti chiami da bicera al padre. No, che c'ha zecca. Da chi momento in poi, Rupata mi ha cominciato a guardare così Stuart. Che appena finita la messa, io me l'avevo ambresso ambresso il vestito bianco. E mi ha mettato a correre. Io come arruviente. Volava. Vedevo le cose che mi passavano veloce veloce. State. Sfortunatamente però Rupata teneva la coscia più lunga della mia. E piano piano mi raggiungette. Ma a chiappetta. E mi rette una bella mezz'ora di cavo in culo. E poi giunto ce l'avette pure se punta a squadra. E tu te l'immagini. Cos'è? Rubello fu quando lo sapette nei compagni della squadra mia. Per una settimana non potette uscire più. Ma pensa a te. Sì. Vito. Sai che? Se potesse scappare qua dentro mi mettesse a correre come un pazzo. Veramente volasse. Però stavolta non mi facesse acchiappare, no? Né mo e né mai. Meglio morì prima. Meglio morì prima. Gli sta a casa a farla sta laurea e ci dicesse: Iamocen, ma non voglio tornare da sonnata. Ma non voglio stare là insieme con te. Tu che fai? Ci vieni con me. E lei? E se ci venisse con me. Per forza. Era meglio morire prima. No. La minga vera. Non altro in che la maniera chi diventa un disimbol. Un malan dentro dello Stato. Una speranza perché il venia a saper. Per i bagai, per quei cancamoga de nas. Salvatore. L'uomo può essere una cosa buona, ma può essere anche una cosa malvagia. L'uomo si abitua a tutto. È normale, se non noi come facessimo a sta chiuso qua dentro. Giusto. Se non la gente come fa a caricare sulla scena. Sfruttamento. Precarietà. Senza ribellarsi in silenzio. Come fa la gente ad accorgersi no che è venuta a servizio a un caso. La gente l'ha avuta quel grande lure in sempre stessa. Democratic. Conservatori. Per nunca è la stessa roba. Cosa cambia per noi? Niente. Ma arriverà il dì che la gente la perderà anche a mo' la pazienza. E nunca stavolta sarà in prunt. Perché è come un balloon che si gonfia. Che si gonfia. Che si gonfia fino al dì che sciopa e quando sciopa. A me ma manca l'aura. Ma manca che non posso vedere più mentre cammina. Ma manca che non posso sentire più la voce sua. Che non ci potremmo dormire più insieme. Vito, ma lo sai che quando dormivo? Quando dormiva, mi sentivo un respiro suo in faccia a me. Poi mi asciutavo. Avrivo che ancora dormivo. Avasavo in fronte e gli va a faticare. Certo che su. Io non me l'immaginavo che poteva essere così bello scendersi a fianco a essa. A me mi pareva una cosa normale, invece non è così. Non è così. Ma che cosa ti vuoi di me? Voglio che agia parlare e tu mi stai a sentire. Allora. Ma manca che quando rirevo ci brillavano gli occhi a tipo stelle e ci si appicciava tutta la faccia, sì. Quando rirevo le guance ci diventavano rosso rosso come alla fragola. Era una sigla, si muovevo tutto quanto. A notte me l'abbracciavo e si metteva la capa in bietta a me. Mi guardava rindo agli occhi. Se facevo piccirella piccirella. E io sentivo il respiro suo. Eppure mi addormevo. E io ero felice così. Io adesso non la posso più vedere, per sempre. Le femmine sono tutte tale quale, non è vero? Cosa ti vorrei dire? Voglio dire che le femmine sono traditore come le iatte. Appena avuto le spalle te l'hanno accurtollata, non è vero? Ma cosa c'entra adesso il discorso che? Che c'ha zecca, perché non mi risponde? Non è vero che le femmine sono buone solo per fare una cosa. Vito! È vero o no che le femmine sono tutte puttane? Perché non mi risponde? Credetemi, t'ha paura. Guarda che non mi offende. Lo può ricere. Perché non lo dice che le femmine sono tutte puttane? Tu ti metti a pure e mi rispondi, invece no. Rispondimi. Rispondimi. Rispondimi. Rispondimi. Rispondimi. Te che deve sforzo. Questo muro lo volesse rompere a capata. Sto muro sono diventato la cerviglia mia. Fanno così. Mi bruciano gli occhi. Tengo freddo. Ma sento la cerviglia che rende la cranio mi fatta. Come se volesse uscire fuori. Dite capina a God. Te che denote fa per me. Né per Laura e neanche per te stessa. A te che deve fare per i compagni. Quando se muore, bisogna non dare soddisfazione a questi qui. Din don, din don, din don, din don, din don, din don, din don, din don, din don, din don, din don, din don. Essere libero come un sogno e una creatura. Spartisse il sangue. Con ti compagni. Una casa, che già fa con le mani mie. Giuga la mattina in mezzo alla strada. De no che stai filmi, ni saet. C'è tra sessa renta, come una carezza. Go caldenter. Quando dormeva si faceva piccirella piccirella, come una iattella. E me mori in sci che mori con ti scurbat de fianco. Rimegli compagni sui picciriglie. Se poteria fare queste cose, gli onori morsi stes. Essa ma me e io maestro. Atomi, toc de atomi. Gli occhi hanno sta appiccicata, si la rapa comincia a chiagnare. La nuca e gomit se poggen. A luce no buco. Son pien. Pien de spin. Viva l'anarchia. Viva l'anarchia. È strana la morte, Vito. Tu non ci stai più. Ti infilano rinda, hanno avuto e ti vanno a terra. Gli altri ci stanno tutti quanti. Solo tu non ci stai più. Chi ha da chiagnare, chiagna. Catanda prima o poi, chiano chiana. Se lo scordano. E non ce la faccio a perdonare. Perdonare servisse a un caso. Le ne prese per il cui ho un lusso per quel che si può permettere. Mi sono minga buon. Che vuoi ricere? Che vuoi ricere? Quale morme padre mi è venuta fuori anche una lacrima. I miei fratelli piangevano a mia madre che veniva un colpo. Mi provavi niente. Come se le era successo niente. Te mi credete? Certo che te credo. E vorrei neanche a vedere. Te metteva paura? No. E che vorrei venga da soddisfazione neanche de morto. E poi sì, sì. Mi stremivi. Mi stremivi che mentre tutta la mia famiglia la piangeva, mi soltanto a vedere. Mi veniva voglia di dargli bastonata. E che vria da perché mi... Sì, Vito. Tu mi hai scusato. Ma chi stai allora a pisciare? Reda! Ma come leve spada? E me lo dice a me che sono cadendo e non ci ha giocato niente. Sì, ma è sempre me che avega no. Mister sta contenta perché un fio. Per prima cosa che insegnavi tutte le nostre canzoni così quando andava a lavorare che serviva del comfort. Ma tu ti potete immaginare di andare a lavorare senza neanche poter cantare. Vunel diventa mat. Mi certi volme canti canzoni de per me. Nella crapa. Sì, per esempio. Mentre tu te parli, mi me canti canzoni de per me. Tu te se ne accorge no. L'è vero o no? Mi certi volte addirittura su un'anca cosa te sedrei a dire. Mi fu finta di ascoltarti, invece... mi canti i canzoni di per me. Oh! C'ha me a pisciare, sì o no? E su. Cos'è si dice che per 6 minuti tu muori, ma lo cervigli tu continua a funzionare? E tu ti ripercorri tutta la vita tua. Da fai da capo, nata vuota. Io penso che questo però, uno rinda sti 6 minuti, se si sbaglia non rifà, no? Io penso che una vita sua sa ripercorre come ricis. O no? Tu che dici? Mica credi no che la roba chi è? E comunque se io sapessi come avessi a finire, che ci avessero chiuso qua dentro per tutto sto tempo. Per tutto sto tempo. Io appena respiro ci ricessere, ci fermà. Io non mi fermasse, no? Viti ti ricessa a te. O scappam, o sparam. Due solo cose. Capo però è la stessa cosa, perché tanto a noi ci avessero acceso lo stesso. Tu ti capi proprio niente. Aspetta. Allora già pisciana da volta. Anche a mo? Sì. Perché? Però poi è vero pure questo. Ripercorrendo prima o dopo. Sembra un punto è morto, uno sa da trovare. Tu che dici? Ma perché te fanca mo che il discorso che è? Senta a me. A morto forse è l'unica cosa che uno non può cagnare. E allora raga, nata vuota, seggia elettrica, ti attaccano alla braccia di Piero. Tu volessi scappare, ma non lo può fare. Scossa elettrica. Te sedresti nei cavei. Gli occhi ti escono fuori. I piedi ventenneghe. Lo cerviglio. Sa brucia. Che sta nostra compagna che neanche arriva in cielo, scorda il mai. Scorda il mai. L'Antonio era innocente. Ma il poliziotto voleva per forza che diceva di essere colpevole. Che era sciupata una bomba, che era in sta tre desmorto. Lui che diceva che c'entrava niente. Ma i poliziotti che davano una dose, legna, pesce, prince già funi paletà. Quando dopo un po' si inferma, è il candì. La vera. Te credo. Te se stanotte, a destra la sua manda. Ma prima, te chiede di chi le sta e te sei liber. Come se le successe niente. Lui però parlava no. Allora che sti chi incomincia a diga? Fa un nome e te sei liber. Un nome, vien sul. Chi le sta? Sapeva bene era uno. Giusto. Ma l'Antonio ciapa e comincia a guardare tutti in faccia una alla volta. E che sti chi mentre lui guardava? Che ti sei ven... Preoccupes no. Preoccupes no. Tan nessun saprà che te sei stati a parlare. A te che tutto il tempo che te veret. A te che tutto il tempo che te veret. Ma l'Antonio a un bel momento ciapa e senza dire una parola sbassa la testa. A che sti chi per la rabbia che cambia perfino la faccia e comincia a picca con forza. Sempre più se for, sempre più se for. Prima in tre, poi in quattro, poi tutti che si buttano addosso. Dopo un bel toc che gli dava in addosso, quel vino si accorgì che dava più senso di vita. L'era sdraia in terra, il sangue, e che veniva fuori dalla buca, dal nas, dai urecci, e pareva un gaspetascià, respirava più. Poi quel vino alto, la terra su di terra, a dervi la finestra e la butta giù del 14° piano. Alla fine andi che l'Antonio si è butta giù de per lui. Chi dice che sto carcere e galera a me mi pare una villeggiatura. Chi dice che manette sud fierra a me mi pare una braccia d'ora. Lur pensa in che arresta la gente, la sera in su chi dentro la massa e tutto è finì. E invece finis niente. Salvatore. Niente. Chi dice... dice che la prison l'ena galera e mi la passino la primavera. Chi dice che in manetti fa de fer mi vu sul mare e mai me fermi. Idee giuste, e poter non fermar, e poter non massa, no, no, no. Chi dice che stu carcere galera istungarin da luce primavera? Chi dice che manetta sud fiera rugor mio no non ha bambierno? Chi dice che la prison è una galera? A me mi pare una villeggiatura. E chi dice che sto carcere galera e a voce scassa mura e ogni frontiera? Chi dice che la prisulla è una galera, a me mi pare una villeggiatura. E chi dice che sto carcere è galera, a me mi pare una villeggiatura. Poter andare da via il cu, poter andare a da via il cu. Someday the silver moon and I will